Capitolo 8. Joe affronta Apollyon. Dove andate? Domandò Amy entrando nella camera un sabato mattina e trovando le due sorelle più grandi pronte ad uscire, con una certa aria di mistero che destò la sua curiosità. Oh, niente, niente, le bambine piccole non devono fare domande, le rispose Joe, secca secca. Ora, non c'è nulla che sia tanto mortificante quando si è giovani come il sentirselo dire, e sentirsi dire levati, cara, è ancora peggio, più offensivo. Subito Amy si impennò e decise di scoprire il segreto, a costo magari di insistere per un'ora. Si rivolse a Meg, che di solito non resisteva mai a lungo, e buona buona le domandò: Oh, dimmelo, perché non ci vengo anch'io? Beth è tutta occupata con le sue bambole, io non ho niente da fare, mi annoio tanto. Non posso, cara, tu non sei stata invitata, cominciò Meg, ma Joe, impaziente, l'interruppe. Senti, Amy, smettila, se no guasti tutto. Tu non ci puoi venire, dunque non far la bambina e non cominciare a frignare. Voi due andate in qualche posto con Lori, lo so. Ieri sera sul sofà stavate bisbigliando e ridendo, tutte e due, e appena arrivata io avete smesso. Andate con lui, è vero? Sì, andiamo con lui, ora sta cheta e non seccare. Amy chiuse la bocca, ma non gli occhi, e vide che Meg si metteva in tasca un ventaglio. Lo so, andate a teatro a vedere i sette castelli, esclamò, e poi aggiunse risoluta, ci vengo anch'io, la mamma ha detto che posso vederli, e io questo mese ho il denaro degli stracci, perché non dirmelo prima? Stammi a sentire un minuto e sii buona, disse Meg con dolcezza. La mamma non vuole che tu ci vada questa settimana perché hai gli occhi ancora un po' infiammati e la luce viva ti potrebbe far male. Ci andrai quest'altra settimana con Beth e Anna e ti divertirai di più. È molto più bello venirci con voi e Lori. Non c'è confronto su. Lasciatemi venire, mi sono tanto annoiata col raffreddore, sempre tappata in casa. Ho tanta voglia di godermela. Di godermela un po'. Senti, Meg, ti prometto che sarò sempre buona, insisteva Amy nel tono più commovente e persuasivo che poteva. Ce la portiamo? La mamma credo non direbbe nulla se la facciamo coprire bene, cominciò a dire Meg. Se viene lei non vengo io, e se non vengo io Lori non è contento. Bella sgarberia sarebbe dopo che ha invitato noi sole rimorchiarci dietro anche Amy. E anche lei, che gusto ci avrebbe a ficcarsi dove non la vogliono? Joe si arrabbiava, non le piaceva affatto dover badare a una bambina capricciosa. Voleva divertirsi, senza pensieri. Il suo tono e le sue maniere, però, indispettirono Amy, che cominciò a mettersi le scarpe dicendo, più irritante che mai: E io ci vengo! Meg ha detto di sì, il biglietto me lo pago da me e Lori non c'entra. Non puoi stare vicino a noi perché i nostri posti sono già presi e nemmeno in un posto lontano da sola. E allora Lori si sentirà obbligato a cederti il posto suo e così guasti tutto. Oppure prenderà un'altra portona per te e questo non sta bene perché non ti aveva invitato. In tutti i modi, vedi, non si può. Perciò stattene cheta. E adesso Joe si arrabbiava molto perché nella fretta si era punta un dito. Seduta per terra con una sola scarpa infilata, Amy cominciò a piangere forte e Meg a cercare di persuaderla. Dal basso si udì la voce di Lori che chiamava le due ragazze ed esse discesero in fretta, lasciando lì la sorella a piangere. Di tanto in tanto Amy si dimenticava di fare la persona grande e si comportava come una bimba viziata. Proprio nel momento che i tre uscivano di casa, ella si affacciò sulle scale e gridò minacciosa: Te ne pentirai, Joe! Vedrai! Canta, canta! Le rispose Joe e sbatté la porta. Si divertirono un mondo perché i sette castelli del lago dei diamanti era uno spettacolo brillante, meraviglioso. Ma a dispetto di quei diavoletti rossi tanto buffi e di quei genietti scintillanti di pagliuzze dorate dei principi e delle principesse vestiti con tanto lusso, nel piacere di Joe c'era mista una goccia di amaro. I ricci d'oro della reginetta delle fate la facevano pensare ad Amy. Negli intervalli fra gli atti poi si divertiva a immaginare che cosa avrebbe fatto Amy per farla pentire. Fra loro due le scaramucce erano frequenti e vive. Scattavano facilmente l'una e l'altra e quando si arrabbiavano abbastanza erano anche violente. Amy punzecchiava Joe e Joe irritava Amy. Le baruffe non erano tanto rare. Dopo se ne vergognavano tutte e due, sebbene fosse la più grande, Jo era quella che si dominava meno e aveva da lottare molto per frenare quel suo carattere impetuoso che sempre la metteva in qualche guaio. Le sue sfuriate non duravano a lungo. Dopo confessava la sua colpa con umiltà e pentimento sincero e cercava di essere più buona. Le sorelle dicevano che quasi quasi erano contente di farla montare in furia, perché dopo diventava un angelo. e la povera Jo faceva sforzi disperati per essere buona, ma il nemico che aveva dentro era sempre lì, pronto a divampare e a rendere inutili i suoi sforzi. Anni di lotte pazienti ci vollero per riuscire a domarlo. Quando ritornarono, trovarono Amy in salotto che leggeva e subito prese un'aria offesa. Non staccò più gli occhi dal libro, non fece nemmeno una domanda. La curiosità però avrebbe finito col prevalere sul risentimento, ma c'era anche Beth che, a forza di domande, si fece fare una brillante descrizione dello spettacolo. Quando Joe salì a deporre il suo cappello più buono, la sua prima occhiata fu per la scrivania. Si ricordava che nel litigio precedente Amy si era sfogata rovesciando per terra il tiretto superiore che era di Joe, ma questa volta trovò ogni cosa al suo posto e, data un'occhiata in fretta ai suoi vari ripostigli, sacchetti e scatole, venne alla conclusione che Amy aveva perdonato e dimenticato. Ma qui si ingannava Joe e il giorno dopo fece una scoperta che produsse una tempesta. Verso sera Meg, Beth e Amy stavano a sedere in salotto quando piombò dentro Joe agitatissima, ansante, e domandò: «Qualcuno ha preso il mio racconto?» Meg e Beth subito dissero di no. Amy si mise ad attizzare il fuoco senza aprir bocca, ma Joe la vide arrossire e in un momento le fu addosso. «Amy, l'hai preso tu?» «No, non l'ho preso. Ad ogni modo sai dov'è. Non so nulla io.» «Questa è una bugia!» esclamò Joe, afferrandola per le spalle e guardandola in modo che avrebbe fatto paura a una ragazza molto più coraggiosa di Amy. «Non è una bugia, non l'ho io, non so dove è adesso e non me ne importa.» «Tu ne sai qualche cosa e farai bene a dirlo subito, se no te lo faccio dire io.» Joe la scrollò un poco. «Puoi gridare finché vuoi, ma il tuo stupido racconto non l'avrai più!» esclamò Amy, che cominciava a montarsi anche lei. «E perché non l'avrò?» «Perché l'ho bruciato!» «Come? Il mio libretto che mi piaceva tanto e volevo finirlo, prima che il babbo tornasse a casa!» «Davvero l'hai bruciato?» disse Joe pallidissima, con gli occhi che mandavano fiamme e le mani che serravano convulse alle spalle di Amy. «Sì, l'ho bruciato. Ti avevo detto che l'avresti pagata, la tua cattiveria di ieri sera, e te l'ho fatta pagare, ecco.» Amy non disse altro perché a vederla così arrabbiata ebbe paura. Joe la scrollò forte finché i suoi denti batterono insieme e intanto le gridava furente: «Cattiva! Cattiva! Come faccio adesso a riscriverlo? Non ti perdonerò più finché vivrò!» Meg accorse a levargliela di mano e Beth a calmare Joe, ma Joe era fuori di sé e, dopo un ultimo scappellotto alla sorella, uscì di corsa e salì in soffitta a divorare la sua rabbia da sola sul vecchio sofà. Di sotto la burrasca si andava calmando perché era tornata la mamma e, udita la cosa, fece subito capire ad Amy il gran torto che aveva fatto alla sorella. Quel lavoro era l'orgoglio di Joe e in casa lo consideravano come un germoglio letterario pieno di grandi promesse. Non erano che 5 o 6 fiabe, ma Joe ci aveva lavorato con pazienza e ci aveva messo tutto il cuore, sperando di trarne qualcosa che meritasse gli onori della stampa. Messeli in bella copia, con grande diligenza, aveva bruciato i brogliacci, sicché Amy, nel suo rogo, aveva distrutta l'opera amorosa di qualche anno. Per gli altri pareva una perdita da poco, ma per Joe era una calamità terribile. Nulla le pareva avrebbe più potuto compensarla. Beth si affliggeva come se le fosse morto uno dei gattini. Meg non diceva nemmeno una parola in difesa della sorella prediletta. La mamma era seria e addolorata, e ad Amy pareva che nessuno le avrebbe più voluto bene finché non domandava perdono di quell'atto del quale ora soffriva lei più di chiunque altro. Quando il campanello suonò per il tè, Joe apparve tanto chiusa e imbronciata che Amy dove tirar fuori tutto il suo coraggio per dirle con un filo di voce: «Ti prego, perdonami, Joe, mi dispiace tanto, tanto.» «Non ti perdonerò mai!» rispose Joe duramente. Da quell'istante non badò più a Amy come se non esistesse. Nessuno faceva parola del brutto fatto, nemmeno la signora March, perché sapevano tutte per esperienza che quando Joe era di quell'umore le parole erano inutili e la cosa migliore era di aspettare che qualche piccolo incidente o la sua indole generosa le calmassero il risentimento e le guarissero la ferita. Non fu una bella serata. Tutte cucirono come al solito. La mamma lesse ad alta voce uno dei loro autori preferiti, che erano Bremer, Scott e Edgeworth, ma qualcosa non andava. La bella pace della casa era turbata. Peggio che mai lo sentirono quando venne l'ora di cantare. Beth riusciva solo a suonare, Joe stava muta e dura come un sasso, ad Amy mancò la voce, sicché cantarono solo Meg e la mamma. Ma per quanti sforzi facessero per mostrarsi allegre come due allodole, le belle voci flautate non pareva si accordassero come sempre e nessuno era in tono. Quando Joe andò a baciarla per darle la buonanotte, la signora Marcia dolcemente le bisbigliò: «Mia cara, non lasciare che il sole tramonti sopra la tua ira. Perdonatevi, aiutatevi fra voi, ricominciate una vita nuova da domani». Joe aveva una gran voglia di posare la testa sul grembo materno e con le lacrime sfogare il dolore e l'ira che provava. Ma le lacrime erano una debolezza indegna di un uomo, e poi si sentiva tanto offesa che ancora non poteva proprio perdonare. Batté le palpebre, scosse il capo e disse in tono brusco perché mi stava a sentire: «È stata un'azione vergognosa, non merita perdono». E via a letto, dura, dura. Quella sera non si udirono il cicaleccio e le risate delle altre sere. Amy era molto impermalita perché la sua offerta di pace era stata respinta e cominciava a pentirsi di essersi umiliata. Più ci pensava e più si sentiva offesa e più arie si dava di virtù superiore che la rendevano più irritante che mai. Joe aveva sempre la faccia burrascosa e in quella giornata non ci fu una cosa che andasse bene. Freddo siberiano la mattina, la preziosa schiacciata calda di Joe le sfuggì di mano e andò a finire in una pozzanghera. La zia Marcia ebbe uno scatto di nervi, Meg era meditabonda, Beth tornò a casa afflitta e mesta e Amy ogni tanto faceva qualche allusione a certa gente che parlava sempre di essere buona, ma non ci si metteva mai sul serio, mentre c'era chi dava loro il buon esempio. «Non posso soffrire nessuno», riflette Joe. «Vado a vedere se Lori ha voglia di pattinare. Lui è sempre buono e allegro, mi metterà di buon umore, ne sono certa». E detto questo, uscì. Amy udì il rumore dei pattini e guardando fuori esclamò impaziente: «Guarda un po', mi aveva promesso che la prima volta che andava mi conduceva, perché è l'ultima gelata per quest'anno. Ma arrabbiata com'è quella maligna, è inutile domandarglielo». «Non dire così», le osservò Meg, «maligna sei stata tu, ed è ben duro per lei perdonare la perdita del suo prezioso quaderno. Eppure, credo che ti perdonerà ormai se tu la prendi nel punto buono. Valle appresso, non dire nulla finché Lori non l'ha messa di buon umore. Allora tu aspetti un momento di silenzio e senza parlare le getti le braccia al collo o qualcosa di simile. Sono sicura che lei farà pace con tutto il cuore». «Proverò», disse Amy. Il consiglio la persuadeva. In un istante fu pronta e corse dietro alla coppia che in quel momento scompariva di là dalla collinetta. Il fiume non era lontano, ma prima che Amy li raggiungesse, ambedue i pattinatori erano già pronti. Joe la vide arrivare e voltò le spalle. Lori non la vide perché pattinava presso la riva, saggiando con molta attenzione la resistenza del ghiaccio, perché prima di quella gelata c'era stata qualche giornata tiepida. Amy lo sentì dire: «Prima arrivo io fino alla svolta a vedere se va bene». E poi lo vide lanciarsi come una freccia, elegantemente impellicciato come un giovane russo. Joe partì, anche lei, lasciando Amy tutta ansante a pestare i piedi, a soffiarsi sulle dita, e infine alle prese con le complicazioni delle cinghie dei suoi pattini. Ma Joe, senza rivoltarsi, scendeva adagio adagio a valle con brevi zigzag e prendeva un gusto maligno alle difficoltà della sorella. Erano ore che covava la sua stizza, il suo rancore, e un sentimento cattivo, se non viene schiacciato subito, cresce e si fa prepotente, irresistibile. Giunto alla svolta, Lori si voltò a gridarle: «Tienti alla riva, nel mezzo non è sicuro il ghiaccio». Joe comprese, ma Amy, che era più lontana e in quel momento lottava per mettersi in piedi, non udì nemmeno. Con la coda dell'occhio Joe la guardava e il demonietto che aveva dentro le sussurrava all'orecchio: «Avrà capito? Boh, se la vedrà lei». Lori era scomparso dietro la svolta del fiume e proprio nel momento che ci arrivava Joe, Amy, che era molto indietro per raggiungerli, tagliava corto, arrischiandosi verso il mezzo, dove il ghiaccio era più sottile. Joe si fermò qualche secondo, ma poi, cedendo a un sentimento strano, indefinibile, riprese la corsa. Non poté trattenersi però dal gettare un'occhiata indietro e proprio in quel momento Amy, con le braccia levate, sprofondava con schianto sinistro del ghiaccio che si rompeva e un tonfo nell'acqua gelida. Al grido della sorella il cuore di Joe cessò di battere. Voleva chiamare Lori, ma la voce non le usciva. Voleva slanciarsi, ma non aveva più forza. Per un secondo restò piantata lì, immobile, con gli occhi spalancati dal terrore a guardare il cappuccetto azzurro che galleggiava sull'acqua nera. Qualcosa o qualcuno le guizzò accanto come un lampo e la voce di Lori gridò: «Una tavola, un legno, subito!». Come fece Joe non lo seppe mai, ma lavorò come un'indemoniata, eseguendo alla cieca gli ordini che le dava Lori. il quale non perdeva affatto la testa, disteso bocconi sull'orlo della fessura apertasi nel ghiaccio, a forza di braccia, aiutandosi con la sua mazza da hockey, sosteneva Gallaemi. Il fatto è che in pochi minuti Joe riuscì a staccare un travicello del parapetto e infine i due, riunendo i loro sforzi, poterono tirarla fuori con più spavento che male. Adesso a casa, facciamola correre, mettiamole addosso quel che abbiamo. Io intanto le tolgo questi maledetti pattini. E Lori, avvolta a Amy col proprio soprabito, si mise a strappare quelle cinghie adesso più ingarbugliate che mai. Amy, tutta sgocciolante, rabbrividiva e piangeva. A casa, senza perdere un secondo, la avvolsero nelle coperte e tirarono il letto davanti a un gran fuoco. In breve Amy si addormentò. Durante queste manovre Joe quasi non aprì bocca, pallida e accigliata, mezza svestita, lacera, con le mani coperte di tagli e ammaccature prodotte da quel parapetto, dal ghiaccio e anche a lei dalle fibbie dei pattini, ella eseguiva gli ordini con prontezza fulminea. Pareva che volasse. Quando Amy fu bene addormentata e nella casa regnò il silenzio, la mamma, seduta al capezzale di Amy, chiamò a sé Joe e le medicò le mani. «Non c'è pericolo, ne sei sicura?» bisbigliava Joe guardando con gli occhi pieni di rimorso quella testina che per poco non era sparita per sempre sotto il ghiaccio traditore. «Oh, nessun pericolo, cara, non si è fatta niente. Non le verrà nemmeno il raffreddore, speriamo. Avete fatto molto bene a coprirla e a portarla a casa subito.» Il tono della mamma era lieto e incoraggiante. «Ha fatto tutto Lori, io le avevo voltate le spalle. Oh mamma, se dovesse morire, la colpa sarebbe mia.» E Joe cadde in ginocchio accanto al letto, pentita e piangente, e raccontava tutto e si accusava fra i singhiozzi di aver avuto il cuore così duro e ringraziava il cielo che le aveva risparmiato quel castigo. «È il mio caratteraccio. Io cerco di emendarmi. Mi pare d'esserci riuscita ed ecco, ritorna fuori peggio di prima. Oh, mamma, come devo fare? Come devo fare?» ripeteva la povera Joe disperatamente. Sorvegliarti e pregare, cara. Non stancarti mai di provare, non disperare mai di riuscire a correggerti, disse la signora March, traendosi sopra una spalla la testa di sua figlia, ma più ella copriva di baci quel volto rosso, sconvolto e rigato di lacrime, e più forte piangeva Joe. Oh, tu non sai, mamma, tu non puoi immaginarti com'è brutto. Quando mi prende, mi pare che sarei capace di qualunque cosa. Divento una furia, farei del male a chiunque con gioia. Ho paura che un giorno o l'altro la farò qualche cosa di orribile, da pentirmene tutta la vita, da farmi odiare da tutti. Oh, mamma, aiutami tu, aiutami tu. E sì, bimba mia, non piangere più ora. Ricordatela questa giornata e fa proponimento con tutta l'anima che un'altra simile non l'avrai mai più. Gio, cara, tutti abbiamo le nostre tentazioni e qualcuno le ha più forti di te. Qualche volta per vincerle ci vuole tutta la vita. Tu credi di avere il carattere più cattivo del mondo? Non sai che il mio una volta era come il tuo, tale e quale? Tu, mamma, ma se non ti ho vista mai arrabbiata! E per un momento Joe sentì più sorpresa che rimorso. Oh, sono 40 anni che cerco di correggermi e sono riuscita solo a dominarmi. Vedi, Joe, non passa giorno, si può dire, che io non mi arrabbi, ma ho imparato a non farlo vedere e ancora spero di riuscire a non arrabbiarmi, ci volessero altri 40 anni. Vedere quel volto amato, così pieno di pazienza e di pentimento, era per Joe una lezione migliore della predica più seria, del rimprovero più severo. La simpatia e la fiducia della mamma agirono come un conforto immediato. Sapere che la mamma aveva lo stesso difetto e cercava di correggerlo le rendeva più sopportabile il pensiero di averlo lei e la confermava nella risoluzione di guarirne. Però 40 anni di vigilanza e di preghiere le parevano un po' lunghi a lei che ne aveva 15. Quando stringi le labbra qualche volta ed esci dalla stanza, è allora che ti prende. È vero, mamma? Sai quando la zia Marcia comincia a rimproverare o qualcun altro ti secca, è così? Chiese Joe, che in quel momento si sentì più che mai vicina e cara a sua madre. Sì, io ho imparato a trattenere le parole che mi verrebbero in quei momenti, e quando sento che contro la mia volontà vogliono venirmi, non faccio altro che uscire un momento, e di fuori mi rimprovero un po' la mia debolezza e la mia cattiveria. E la signora March sorrideva, ravviando e intrecciando i capelli arruffati della figlia. «Ma come hai fatto per imparare a tenere la bocca chiusa? Quello è il difficile per me. Certe parole mi sfuggono prima di sapere quel che dico, e quando ho cominciato, più parlo e peggio divento. Allora è un piacere per me offendere le persone, farle soffrire, dire delle cose orribili. Dimmi come fai a riuscirci, mamma cara.» Ah, la mia buona madre mi aiutava. Come fai tu con noi? La interruppe Joe con un bacio riconoscente. Ma la persi quando avevo poco più dell'età tua e per anni e anni dovetti lottare da sola perché ero troppo orgogliosa per confessare la mia debolezza a un'altra persona. Fu assai duro, Joe, e molte lacrime amare mi toccò versare ogni volta che non riuscivo, giacché per quanti sforzi facessi mi pareva sempre di essere allo stesso punto. Dopo venne tuo padre e fui tanto felice che essere buona mi riusciva facile. Ma poi ogni tanto con quattro bambine piccole e con la povertà la malattia mi tornava, perché di natura io non sono paziente ed era una prova ben dura vedere che le mie bambine mancavano di qualche cosa. Povera mamma, e cos'è che ti ha aiutato allora? Tuo padre, Joe. Lui la pazienza non la perde mai, non ha mai un dubbio, mai un lamento. Lui spera sempre e lavora e aspetta con tanta serenità che a stargli vicini ci si vergogna di non fare come lui. È stato il mio aiuto e il mio conforto e mi ha insegnato che per riuscire di esempio alle mie bambine bisogna che io cerchi di praticare tutte le virtù che vorrei vedere in loro. E farlo per voi mi è stato molto più facile che farlo per me. Un moto, un'occhiata di sorpresa di una di voi quando mi sfuggiva una parola troppo viva, era per me un rimprovero molto più forte di qualsiasi discorso. E l'amore, il rispetto e la fiducia delle mie bimbe fu la ricompensa più dolce che potessero avere i miei sforzi per diventare donna da proporre loro per modello. Oh, mamma, se riuscirò buona la metà di quello che sei tu, me ne accontenterò io, esclamò Joe tutta commossa. Invece spero che tu riuscirai molto migliore, cara, ma lo devi tenere d'occhio, quello che tuo padre chiama il nemico interno, se no ti renderà la vita triste, seppure non te la guasterà del tutto. Quello che hai avuto adesso è un avvertimento che devi tenere a mente e tentare con tutte le tue forze di padroneggiarlo. Il tuo carattere vivace, prima che ti rechi qualche dolore o qualche pentimento più forte di quello che hai conosciuto oggi. Farò di tutto, mamma, te lo prometto. Ma tu mi devi aiutare, mi devi mettere in guardia, mi devi trattenere quando sto per scattare. Qualche volta mi ricordo il babbo si metteva un dito in croce sulla bocca e ti guardava col volto buono, ma serio. E tu allora stringevi le labbra oppure uscivi. Erano quelli i momenti che ti metteva in guardia? Questa domanda Joe la fece con voce timida e rispettosa. Sicuro, io gli avevo chiesto di aiutarmi e lui non se ne scordava mai. Con quel piccolo gesto e con quell'occhiata buona me ne ha fermate sulle labbra di parole vive. La mamma aveva gli occhi umidi e le tremavano le labbra. Joe se ne accorse e, temendo di aver detto troppo, le chiese preoccupata: Ho fatto male ad osservarti e a dirtelo. Non volevo offenderti, ma è così bello confessare tutto quello che penso e mi sento così bene, così tranquilla con te. Mia piccola Jo, a tua madre puoi dire qualunque cosa. Sentire che le mie figlie hanno fiducia in me è la mia felicità, il mio orgoglio. E allora mi accorgo di quanto vi voglio bene. Jo non diceva nulla, soltanto si stringeva più forte al seno materno. E nel silenzio che seguì le salì dal cuore la preghiera più sincera della sua vita, ma senza parole. In quell'ora triste ma felice ella aveva conosciuto non solo l'amarezza del rimorso e della disperazione, ma anche la dolcezza del sacrificio e del dominio su se stessa. Amy, nel sonno, fece un movimento, sospirò, e come ansiosa di cominciare subito a mendarsi, Joe la guardò con un'espressione che il suo volto non aveva mai avuto. Ieri ho lasciato tramontare il sole sull'ira mia, non ho voluto perdonare, e oggi, se non era Lori, poteva essere troppo tardi. Come ho potuto essere tanto cattiva? Joe parlava quasi ad alta voce, china sulla sorella, e dolcemente le accarezzava i capelli sparsi sul cuscino e ancora umidi. E mi parve che avesse udito. Ella aperse gli occhi e distese le braccia con un sorriso che andò dritto al cuore della sorella. Né l'una né l'altra dissero una parola. Si abbracciarono strette, malgrado le coperte, e ogni cosa fu perdonata e dimenticata in un bacio che veniva dal cuore.